Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Col passare delle ore si fa sera su Rock FM e poi sarà anche notte. Con il passare delle voci, come quella di Edo che ci ha appena lasciato, come quella di Giulio Caperdoni, che sta per cominciare Eclettica come ogni sera fra le 19 e le 20, o quelle che seguiranno, come quella di Marco Garavelli, Hard and Heavy, dalle 20 alle 21, poi quella di Claudia e poi Maurizio Faolisi. E poi sarà la notte di Rock FM con musica non stop. Giulio Caperdoni che comincia Eclettica nella sua solita formula di musica, libri e film. Ali aveva i tratti mongolici caratteristici degli Hazara. Per anni tutto ciò che avevo saputo di loro era che discendevano dai mongoli e che assomigliavano ai cinesi. I libri di testo quasi non ne parlavano. Poi, un giorno, nello studio di Baba, trovai un vecchio libro di storia di mia madre, scritto da un iraniano. Quella sera a letto lo lessi e fui sorpreso di trovare un intero capitolo sugli Hazara. Un intero capitolo dedicato alla popolazione di Assam. Scoprii che la mia gente, i Pashtun, li avevano perseguitati e oppressi. Da secoli, periodicamente, gli Hazara cercavano di ribellarsi, ma i Pashtun li reprimevano con inaudita violenza. Il libro diceva che la mia gente li aveva uccisi, torturati, aveva bruciato le loro case e venduto le loro donne. E una delle ragioni era che loro erano sciiti e noi sunniti. Il libro diceva cose che nessuno mi aveva mai detto, ma anche cose che io sapevo benissimo. Per esempio che gli Hazara erano chiamati nasi piatti, mangiaratti, asini da soma. La settimana seguente mostrai al mio maestro il libro. Scorse in fretta un paio di pagine e me lo restituì con un sorrisetto di sufficienza. Se c'è una cosa che gli sciiti sanno fare bene è passare per martiri. E quando pronunciò la parola sciiti, fece una smorfia, come se si trattasse di una malattia infettiva. Nonostante Sanaubar appartenesse alla stessa etnia e addirittura alla stessa famiglia di Ali, non esitava a unirsi ai ragazzini nel dileggiare il marito. La gente finì per sospettare che il matrimonio fosse stato combinato tra Ali e suo zio, il padre di Sanaubar, per restituire una parvenza di dignità al nome della famiglia che la ragazza aveva spudoratamente macchiato. Questo era ancora il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. Yeah. guys, you know what? You're nuts. You're all nuts. You've been focused so hard on making it, you forgot about one little thing. It's called the music. And I don't even care. You know what? So what? I don't want to hang out with a bunch of wannabe corporate sellouts. I'm going to form my own band, and we are going to start a revolution, okay? And you're going to be a funny little footnote on my epic ass. Yo, yo, hey yo, you brought me on Jerry just to take you back. And then it bullshit you put me through a couple months back. That wasn't right. Called the cops on me and told them I had it like. Yeah, popped the trunk, he got dope and guns. Check for warrants. That son of a bitch on the run, I know it. Three of his niggas got life. He used to roll with it. Told him my body the upcoming basketball star. Once I heard that, I fell out the cop car. Non abbiamo fatto ancora in tempo a metabolizzare The Ghost of You Linger, il brano che rappresenta il nuovo degli Spoon, atteso da tanti, che già ce l'abbiamo in versione mashup, come avete sentito. Spoon con Ghostface nel brano reintitolato The Ghostface of You Lingers. Però io volevo spendere qualche parola sul pezzo che ha aperto il volume numero 3 di Eclettica di questa settimana. Il trio Duane Denison, John Stanier e Mike Patton, ovvero sia i Tomahawk, usciti per la Ipecac Recordings in questi giorni con un nuovo album dal titolo Anonymous. Una spiegazione di questo titolo è che vanno a rifare canzoni tradizionali, quindi senza autore, quindi anonime, ma sono canzoni della tradizione americana, quella che non deriva né dalla musica europea né dalla musica africana. Sono le canzoni folk dei nativi americani, soprattutto quelle degli indiani Hopi, e noi ci siamo ascoltati Ghost Dance. Ben ritornato, Mike Patton. Ed ora andiamo ad ascoltarci un estratto da un album che avete capito che non è che mi abbia soddisfatto più di tanto, visto che passa rarissimamente da queste parti. Sto parlando degli Arcade Fire. You're still a soldier in your mind, still nothing's on the line. You say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, go at it alone. Take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die. Just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Non si vendicò mai dei suoi aguzzini, non solo perché non era in grado di acciuffarli, ma soprattutto perché era impermeabile agli insulti. Aveva trovato la gioia e un antidoto al dolore con la nascita di Hassan. Il parto era andato liscio come l'olio. Nessuna ostetrica, nessun anestesista, nessun sofisticato strumento di monitoraggio. Sana Ubar, stesa su un materasso, aveva partorito con l'aiuto di Ali e di una levatrice. In realtà non aveva avuto bisogno di grande assistenza, perché sin dalla nascita Hassan aveva dato prova della sua vera natura, della sua incapacità a fare del male. Qualche grido, un paio di spinte e Hassan era venuto al mondo, con un sorriso. Secondo la confidenza che l'indiscreta levatrice aveva fatto alla serva di un vicino, Sanaubar aveva dato un'occhiata al neonato che Ali teneva in braccio e, visto il taglio sul labbro, era scoppiata in una risata sarcastica. «Ecco!» aveva detto. «Ora hai questo idiota di figlio che sorriderà al posto tuo!» Si era rifiutata persino di prendere in braccio il piccolo. 5 giorni dopo era sparita. Baba aveva assunto la stessa balia che aveva allattato me. Ali ci aveva raccontato che era una donna Hazara con gli occhi azzurri, originaria di Bamiyan, la città con le colossali statue dei Buddha. «Cantava con una voce dolcissima», ci diceva. Nonostante conoscessimo già la risposta, Hassan e io gli chiedevamo «Che cosa ci cantava?» Allora Ali si schiariva la voce e iniziava «Sulla cima di un'alta montagna gridai il nome di Ali, leone di Dio. Oh Ali, leone di Dio, signore degli uomini, rallegra i nostri cuori dolenti». Poi ci ripeteva che c'era una fratellanza tra chi si era nutrito allo stesso seno, una parentela che neppure il tempo poteva spezzare. Hassan e io avevamo succhiato lo stesso latte, avevamo mosso i primi passi sullo stesso prato e avevamo pronunciato le prime parole sotto lo stesso tetto. La mia fu Baba, la sua Amir, il mio nome. Ripensandoci ora, credo che le radici di ciò che accadde nell'inverno del 1975 e di tutto ciò che ne seguì affondassero già in quelle prime parole. Questo era ancora Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini. As the sun rose up into the sky and all I could hear was birdsong, and the hackneyed tones of Radio One, I knew something was wrong. And as I lay and tried to remember, with tightly closed eyes, I felt soft, warm fingers trace a chord from the small of my back to the inside thigh, by your lip. Pretend you're asleep, and hold your breath, and count to 10. When you open your eyes, just hope you're back in bed with your girlfriend again. I recall a bottle of vodka in Mastermind's friend. And a strange party piece with a Swiss Army knife, with me and your girlfriend, or is she your wife? I know my bedroom's white and this one's green, with posters of bands I hate. And there's a whiff of petunia, and I know it's not me. And as a breast or two squash into my back, a rambling yawn floats over. And it smacks me in the mouth, just what this is all about. I'm bed with your best friend. How's this gonna work? Are you gonna pay me up front? I don't understand. It'd be really great if I could get paid now in cash. Oh, well, we don't do that. Okay, well, when you cut my check, just make it payable to Dewey Finn for tax reasons. You can discuss all of that with Candace in administration at the end of the day. Okay, when's the end of the day? We commence at 8:15. School lets out at 3. Oh, you know what? You think I could cut out a little early today? I got some stuff I gotta do. It's cool. I can stay.